Quei numeri per adesso al centro Mattei dicono che ci sono 8 casi positivi. Ieri durante il pomeriggio sono stati fatti tamponi probabilmente a tutti i migranti e quindi si attendono altri risultati nelle prossime ore, nei prossimi giorni. La situazione del Mattei appunto è immediatamente connessa con Bartolini e con in generale il magazzino della logistica. È una cosa che il coordinamento migranti e i migranti che sono dentro Mattei, le altre associazioni, l'ASGI sta ripetendo da marzo che il fatto che il Mattei sia un posto pericoloso, il fatto che esista un rischio doppio tra centro Mattei e magazzini della logistica è una cosa assolutamente palese. Le istituzioni, come abbiamo più volte denunciato, hanno finto di preoccuparsi della cosa all'inizio della pandemia, sia la regione che il comune, e per poi sostanzialmente lavarsene le mani. È stata intentata anche una causa da ASGI e il Tribunale di Bologna ha detto che non sussisteva il caso. Questa causa era proprio perché, come dire, all'interno del centro non c'erano le condizioni necessarie prescritte anche dalla legge? Esattamente. La causa metteva in luce come all'interno del CAS Mattei fosse assolutamente impossibile adottare quelle misure di distanziamento sociale previste dai decreti legge durante la pandemia. Il Mattei è un posto insalubre fin da prima il Covid. Ci sono migranti che dormono in camerate da 10-14 persone o dentro i container. Una volta, diciamo, finita la fase 1, il lockdown, non si sono accontentati di non fare niente, ma sono arrivati altri migranti nuovi, diciamo, da altre città, dovrebbero essere circa 25, ad andare a integrare ulteriormente i numeri già alti di quella struttura. Vediamo adesso i risultati dei ragionamenti delle istituzioni, ecco. Beh, insomma, intanto la Bartolini non è stata chiusa e questo, come dire, è un segnale. Sì, è un segnale, direi, anche di continuità, tanto dell'atteggiamento delle imprese durante il coronavirus, tanto di quanto a cuore si abbiano la salute dei migranti, nel senso che in special modo sui migranti, che poi sono quelli che appunto lavorano dentro i magazzini della logistica, quelli che lavorano nell'agricoltura, è ancora più semplice, come dire, nascondere il rischio che loro stanno correndo, anche perché c'è ovviamente un discorso di ricattabilità. I ragazzi dentro il Mattei spesso sono qui da anni in attesa di una commissione territoriale che gli dica se possono stare o no, non hanno soldi ovviamente, sono in attesa di chiamate per lavorare e quindi se sei in quelle condizioni è più difficile dire di no al lavoro. Il Mattei, come altre strutture abbiamo visto in Lombardia, ma anche in Emilia, viene utilizzato come una sorta di dormitorio per le agenzie del lavoro, ovvero ogni volta che servono dei lavoratori, alla giornata li chiamano, alle 18 li mandano a lavorare di notte all'Interporto, e questo funziona così sistematicamente da tempo. Invece avete notizie di altri casi di contagio in altre strutture? Allora, ci sono stati dei casi all'interno dello Zaccarelli che risalgono a qualche settimana fa. Penso che alcuni ragazzi siano ancora in isolamento in una struttura, in un albergo. Il fatto è che su quel versante, esattamente poi come anche sul Mattei, tutte le notizie rispetto alla salute dei migranti, ai provvedimenti presi, al fatto che avessero fatto o meno i tamponi, sono state... non ci sono notizie, fondamentalmente, non se ne trovano. Anche è stato chiesto anche al Dipartimento di Sanità di fornire dati e non sono ancora arrivati, quindi non si sa niente. Dentro al Mattei, anche dopo che sono arrivati dei casi, diversi, io ho sentito direttamente molti dei migranti che non sapevano niente. Cioè, i migranti non solo vengono trattati nel modo che abbiamo descritto e messi in pericolo, ma vengono anche completamente tenuti all'oscuro di quello che sta succedendo all'interno dei magazzini e all'interno del posto dove vivono. Ieri, mentre facevano i tamponi, alcuni dei ragazzi stavano girando dei video per denunciare la cosa. Siccome anche loro si sono accorti che c'è un'attenzione da parte della stampa e della città su quello che stanno dicendo, e operatori e altri sono andati a dirgli che loro non potevano prendere la parola, che non potevano far vedere quello che stava succedendo lì dentro. Basta, è l'ora veramente di finirla con questa storia.